Salva Danaio di Deborah Rosciani. Radioascoltatori e radioascoltatrici, buongiorno da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Il sistema della previdenza complementare italiana ha retto alla crisi finanziaria, ma occorrono dei provvedimenti per estendere le adesioni ai fondi pensione perché le pensioni future offriranno tassi di sostituzione sempre più bassi. La relazione 2008 della COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione guidata da Antonio Finocchiaro, si è concentrata la settimana scorsa particolarmente su questo punto, ma non solo. È stata anche l'occasione per fare un altro punto, quello sulle possibili nuove misure da introdurre nel sistema per estendere la cosiddetta copertura di secondo pilastro alle categorie escluse. Ma non solo questo, nel corso della relazione annuale è stata fatta anche un'altra proposta, quella di un nuovo semestre di silenzio assenso, lo ricorderete tutti, quello di 2 anni fa, per decidere la destinazione del trattamento di fine rapporto, e si è parlato anche di una nuova campagna di informazione istituzionale per spiegare agli italiani cosa vuol dire aderire ai fondi pensione, una campagna di informazione istituzionale che sicuramente 2 anni fa è mancata. Allora, insomma, stamattina ne abbiamo di temi di cui discutere con il presidente della COVIP, vi avevamo promesso che lo avremmo invitato, e questa mattina il dottor Antonio Finocchiaro è qui con noi a Salva Danaio, non negli studi di Milano ma in quelli di Roma. Dottor Finocchiaro, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Deborah, buongiorno radioascoltatori. Grazie di essere intervenuto. Stamattina se la vedrà con me, con i nostri ascoltatori, ma anche con il nostro Marco Lo Conte, collega di Plus 24 del Sole 24 ore. Marco, bentornato. Buongiorno a tutti. Il tema è sempre caldo ed è molto caro anche ai nostri ascoltatori, perché ci sono ancora tanti indecisi, tanti lavoratori che hanno mantenuto 2 anni fa il TFR in azienda e che magari vorrebbero fare una forma di previdenza complementare, studiare qual è la soluzione migliore per il proprio caso, ma sono ancora indecisi. Allora stamattina cercheremo di sciogliere i vostri dilemmi, magari non riusciremo neanche a scioglierli, rimarrete ancorati alle vostre convinzioni, ma comunque tutto sarà utile ad animare il dibattito di questa mattina. Potete chiamarci all'800 24 00 24, ci potete scrivere al 349 238 6666. E siccome il tema è molto caro a tutti voi, andiamo velocemente a dare un'occhiata a quello che succede in borsa. La borsa stamattina era molto positiva in avvio, dopo i cali di ieri il recupero di circa un punto percentuale, ma prima ho parlato di un ridimensionamento di questa buona partenza, al punto che addirittura Parigi sta passando adesso in territorio negativo, perde lo 0,10%, appena positiva ancora Francoforte, più 0,3%, Londra più 0,43%, Milano più 0,30% sul FTSE MIB. Nel collegamento del giornale radio di pochi minuti fa guadagnava oltre mezzo punto percentuale, per cui c'è un po', appunto, vi dicevo, un rallentamento rispetto alla buona partenza. Milano stamattina sta privilegiando gli acquisti su Buzzi Unicem, più 2,79%, su Tenaris più 1,52%, su Ansaldo più 1,50%, sul Banco Popolare più 1,36%. Banco Popolare che praticamente ha già fatto sapere che emetterà i cosiddetti Tremonti Bond la settimana prossima, anzi poche settimane mancano, ha detto il numero uno Pierfrancesco Saviotti, alla nostra emissione dei bond di Stato per 1.450 milioni di euro. È la prima banca che concretizza l'iniziativa. Telecom va bene stamattina, adesso in realtà la vedo sparire tra i migliori titoli della seduta, più 0,36%, la segnaliamo perché continua a ricevere giudizi positivi da numerose case di investimento. Invece in difficoltà abbiamo la Popolare di Milano, meno 2,10, Luxottica meno 1,47, Enel meno 0,9, Fondiaria meno 0,9, Bulgari meno 0,8%. Stamattina il petrolio si è risvegliato sopra i $70 al barile e l'euro si è risvegliato sopra quota 1,40 rispetto al dollaro, anzi adesso si sta avvicinando a 1,41. Noi però lasciamo la borsa e oggi ritorniamo sul tema della previdenza complementare, perché ve lo avevamo promesso ai nostri ascoltatori di portare a Salva Danaio il presidente della COVIP, Antonio Finocchiaro. Il presidente prontamente ha ricevuto appunto il nostro invito e ha accolto il nostro invito. Noi generalmente, presidente Finocchiaro, introduciamo la nostra trasmissione con una scheda, questa volta però voglio subito cominciare a fare la nostra chiacchierata con lei, perché per chi non conosce bene la sua biografia vorrei raccontarla questa mattina. 47 anni in Banca d'Italia e poi questa avventura in COVIP a partire da gennaio, in un momento molto delicato, non solo per la previdenza complementare, ma ovviamente per effetto della crisi finanziaria anche per questa. Come sta trovando questa avventura? Guarda, io la sto trovando abbastanza pesante. Forse avevo sottovalutato l'impegno, come dice lei, questo impegno è arrivato in un momento difficile per il paese, difficile per i mercati. Però non ci si arrende di fronte a queste situazioni, ci si impegna. La Covip è una struttura molto limitata, ha 67 dipendenti, deve controllare 600 fondi, però c'è un grande entusiasmo, c'è una grande credibilità da parte dei dipendenti, molti ritengono che il futuro della previdenza complementare dipenderà anche dall'impegno che tutti quanti noi metteremo nel portarla avanti, nello svilupparlo, nell'individuare gli strumenti per farla crescere. Presidente, lei nella sua relazione della settimana scorsa ha tracciato a tutti coloro che erano presenti a questa manifestazione pubblica quelli che appunto potrebbero essere gli obiettivi della sua gestione e che sono stati individuati direttamente anche con il ministro del welfare Maurizio Sacconi. Se lei però dovesse indicarci adesso in questo momento quello che potrebbe essere il suo primo impegno, quello sul quale vuole mettere mano immediatamente, proprio il tema magari della maggior informazione tra i lavoratori del sistema della previdenza complementare italiana, perché ci pare di capire che ancora su questo punto non ci siamo in Italia. Sì, dunque in Italia un dipendente, un impiegato, un operaio, un lavoratore su 5 è iscritto alla previdenza complementare. Ci sono 5 milioni di iscritti, di aderenti, però ci sono 20 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato, ci sono 5 milioni di autonomi, c'è l'intero settore pubblico, meno la scuola, che può costituire in futuro la base della previdenza complementare. La previdenza complementare è una necessità. Quindi il mio primo obiettivo, io mi sono posto due obiettivi che poi emergono dalla relazione fatta alcune settimane or sono. Il primo è far crescere questa base. È un momento difficile, so bene che molti lavoratori alla fine, per usare una frase fatta, non arrivano alla quarta settimana. Però la pensione integrativa è una necessità alla luce di quello che sono stime della Ragioneria Generale dello Stato, avverrà in quello che viene chiamato il primo pilastro, cioè nella pensione pubblica obbligatoria. Il secondo obiettivo è quello di controllare i fondi, e al fondo è questo l'obiettivo principale della Covip. La Covip deve controllare che i fondi operano con trasparenza, operano con concorrenza leale, soprattutto va controllato la sana e prudente gestione dei fondi. Non scordiamoci che i destinatari ultimi dell'azione della Covip sono i lavoratori che aderiscono alla Covip, che aderiscono, scusate, ai fondi pensione. Quindi questi sono i due obiettivi più immediati per i quali stiamo lavorando. Tra l'altro, Presidente, proprio alla luce anche di quello che dicevamo, la crisi finanziaria e il modo con cui questa poi si è ripercossa anche sui rendimenti dei fondi pensione nel nostro Paese, so che lei sta lavorando e ha a cuore anche un altro tema, che è quello del cosiddetto paracadute contro le perdite. Poi magari avremo modo di sviluppare anche questo nel corso di Salvadanaio. 800 24 00 24, continuo a ricordare il numero verde per i nostri ascoltatori che tra un po' inizieremo a sentire. Marco, prima di cominciare a chiacchierare con te, la nostra scheda che ci rifà un punto proprio su questo nodo dei rendimenti che si sono maturati appunto tra i fondi pensione, anzi come la crisi si è riflessa sui rendimenti dei fondi appunto in questa prima parte dell'anno. Sentiamo. Nel ciclone delle borse sono finiti anche loro, i fondi pensione, che hanno archiviato il 2008 in rosso, anche se con risultati migliori rispetto all'andamento dei mercati. I numeri parlano chiaro. L'anno scorso i fondi pensione negoziali hanno perso in media il 6,3%, i fondi pensione aperti il 14%, mentre i piani individuali di previdenza di tipo assicurativo, PIP, hanno lasciato sul terreno addirittura il 24,9%. Negli stessi 12 mesi, dal gennaio a dicembre 2008, la rivalutazione netta del TFR è stata pari al 2,7%. E il trend è rimasto lo stesso anche nella prima fase di quest'anno. Nel primo trimestre del 2009, mentre il TFR netto si è rivalutato di un ulteriore 0,3%, i fondi pensione negoziali hanno ceduto ancora l'1%, i fondi pensione aperti il 2,2% e i PIP il 4,6%. Bisogna però considerare che esistono forti differenze a seconda della tipologia di linea scelta. Per esempio, tra i fondi negoziali, nel 2008, mentre le linee obbligazionarie miste hanno perso il 3,9%, quelle bilanciate hanno lasciato sul terreno il 9,4% e le azionarie addirittura il 24,5%. Stesso discorso per i comparti dei fondi pensione aperti, dove, a fronte delle perdite registrate dagli obbligazionisti misti, meno 2,2%, dai bilanciati, meno 14,1% e dagli azionari, meno 27,6%, spunta un rialzo dell'1,9% per i comparti garantiti e un apprezzamento di valore del 4,9% per le linee obbligazionarie pure. Ma all'orizzonte si intravede già la ripresa. Da marzo a maggio, infatti, complice il rimbalzo delle borse, i negoziali hanno recuperato un 2,2%, mentre gli aperti sono cresciuti del 2,7%. C'era un'imprecisione nella scheda, invece di obbligazionari misti abbiamo detto obbligazionisti misti, ma speriamo che i nostri ascoltatori abbiano capito che si trattava di un refuso dello speaker. Chiedo perdono perché non abbiamo controllato bene la scheda. In ogni caso, l'importante è che abbiamo dato Marco Lo Conte correttamente le performance dei fondi, che comunque, se aggiorniamo ulteriormente al 31 maggio, sono migliorate ulteriormente. Beh sì, allora ricordiamo che appunto da marzo le borse hanno recuperato in maniera vistosa, forse pochi se ne saranno accorti, ma rialzi dell'ordine del 30% non sono molto frequenti, sono stati anche superiori al 30% i rialzi dei mercati azionari, e questo ha, come dire, ha avuto un effetto tangibile sui rendimenti dei fondi pensione. Quasi tutti i comparti da inizio anno sono in territorio positivo, e quindi questo è un elemento da considerare. Ricordo anche che se prendiamo i rendimenti su un periodo un po' più lungo, da inizio 2003 al 31 maggio scorso, verifichiamo che il TFR si è rivalutato del 18,3%. I fondi pensione negoziali hanno fatto meglio, più 19,7%. Dunque, in un orizzonte più lungo, di medio termine, i fondi pensione, almeno quelli negoziali, quelli aperti sono un po' sotto, ma insomma i fondi negoziali riescono a battere il TFR all'ordo, cioè poi bisognerebbe aggiungere anche il beneficio fiscale, questo è un ulteriore. Ricordo un ulteriore elemento di efficienza dei fondi pensione, ossia che qui parliamo di pochi anni, noi dobbiamo analizzare il risparmio previdenziale in un'ottica di più lungo periodo. Quindi potrebbe essere anche particolarmente vantaggioso una perdita nel breve periodo per chi ha diverso tempo di permanenza ancora nei fondi pensione, perché come dire, accusare un meno 8, meno 10% nel 2008 e avere ancora 20 anni di fronte, 15 anni, può essere un vantaggio, perché significa comprare a poco, accumulare più quote. Esatto, comprare a poco, accumulare più quote che verranno riscattate tra diversi lustri, tra diversi decenni. Questo potrebbe risultare particolarmente efficiente. Attenzione ad un'analisi, come dire, seria e correlata agli obiettivi della nostra adesione ad un fondo pensione. Non spaventiamoci del meno 20% o meno 25%, perché quel meno 20, meno 25 potrebbe risultare, tramutarsi in un più 40% dopo 20 anni. Colgo la palla al balzo, Marco, su questo ragionamento che hai fatto, perché c'è però da dire che in qualche maniera quei lavoratori che valutando le performance dei propri fondi pensione si sono spaventati, lo hanno fatto perché ovviamente poi emotivamente siamo un po' tutti uguali, e anche, come dire, normale che ci si spaventi rispetto a questa situazione del tutto inedita che abbiamo visto negli ultimi mesi. Allora, è comprensibile spaventarsi, però bisogna anche poi rilassarsi e guardare le cose. Esatto, no? Anche perché noi ci stiamo trovando ad avere a che fare con un sistema che per noi è radicalmente nuovo, non siamo degli anglosassoni, quindi abbiamo una tradizione molto diversa in termini previdenziali. Pertanto, Presidente Finocchiaro, proprio per questi motivi che stiamo spiegando con Marco Lo Conte, so che lei ha pensato anche ad un possibile paracadute contro le perdite, è un'ipotesi che naturalmente è ancora completamente allo studio, ma leggo direttamente dalla sua intervista rilasciata alla stampa qualche giorno fa. Stiamo studiando la possibilità di creare all'interno di ogni singola categoria della previdenza complementare un fondo antiperdite che possa compensare gli andamenti negativi dei fondi pensione. Allora, che punto è questo suo pensiero? Dunque, innanzitutto io vorrei precisare, a integrazione di quello che ha detto il mio amico Marco, che noi, fino a quando un lavoratore non decide di andare in pensione o di uscire dal fondo, quelle che abbiamo indicato sono perdite teoriche. Perché? Perché è soltanto nel momento in cui si esce dal fondo o si va in pensione che queste perdite, ammesso che nel momento in cui una persona esca ci sono, si capitalizzano in quel momento. Quindi attenzione, insomma, ecco, cioè oggi sono perdite teoriche. Primo. Secondo, garanzie. Qui abbiamo due momenti in cui la garanzia diventa necessaria. C'è un momento, il momento in cui il lavoratore decide di uscire dal sistema perché va in pensione, e se in quel momento i mercati sono in crisi, sono in difficoltà, è chiaro che lui ha delle perdite effettive in quel momento. Quindi che è un po' quello che è successo anche a qualcuno che è successo in questo periodo. Esatto, brava. E che significa che bisogna pensare a un sistema che man mano che un dipendente diciamo, va avanti con gli anni, va avanti con l'impegno lavorativo, gli garantisca sempre di più una pensione tranquilla, serena. Questo è un meccanismo già conosciuto, si chiama life cycle, nel senso che diciamo, col passare del tempo i montanti, cioè gli accantonamenti che il lavoratore effettua, vengono gradualmente trasferiti da linee di investimento più rischiose, per esempio quelle azionarie, che però possono dare rendimenti maggiori, a linee di investimento più tranquille, per esempio gli obbligazionari. Alcuni fondi già lo fanno, il sistema dovrebbe estendersi. Naturalmente questi spostamenti possono essere di tipo automatico in base a programmi prestabiliti oppure su richiesta del lavoratore. C'è un secondo momento poi, c'è il momento in cui un lavoratore ha un aderente, usiamo questo termine, ha delle difficoltà. Perché si ammala, perché ha esigenze particolari, specifiche, perché deve magari acquistare la casa e quindi dopo alcuni anni ha il diritto di recuperare una parte del suo montante, incassare. Ecco, quello è un momento in cui ci vorrebbe un altro tipo di garanzia. Naturalmente parlare di garanzie significa parlare di due cose. Primo, il costo di questa garanzia. Esatto. Secondo, chi la sopporta. Io ho detto chiaramente nella mia relazione che non è questo il momento per addossare alla finanza pubblica ulteriori oneri. Quindi questa garanzia dovrebbe essere individuata all'interno dei fondi, sia esso un singolo fondo, sia esso una categoria di fondi, sia l'intero mondo dei fondi pensione, creando scuso per il bisticcio di parole, degli accantonamenti, dei fondi che possano essere utilizzati soltanto in questi momenti difficili o di difficoltà. Eccoci di nuovo ritornati insieme a Salva Danai, con Marco Loconte completamente distratto sulle televisioni, sugli schermi che ci circondano, che ovviamente stanno continuando a dedicare grandissimo spazio alla morte della leggenda del pop, Michael Jackson. Inevitabilmente oggi davvero questo tema surclassa tutto il resto. E noi ritorniamo invece alla nostra previdenza complementare. Questa mattina insieme a Marco Loconte c'è il presidente della COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi, Antonio Finocchiaro. Abbiamo già le domande degli ascoltatori e abbiamo anche molti ascoltatori che ci scrivono al 349-238-6666. Molti sono polemici, come al solito, quando facciamo questo argomento, perché insomma ritengono che stiamo continuando a portare farina al sacco dei fondi pensione, come se non interessasse fare una cosa piuttosto che un'altra. Noi vi spieghiamo come stanno le cose, poi ognuno può fare la scelta che ritiene più opportuna per la propria famiglia, per la propria casa, per le proprie esigenze. Pertanto però darò voce anche ai polemici tra qualche minuto. Prima però alle telefonate. Allora, volevo cominciare con Massimiliano da Milano, perché ci dà l'opportunità di spiegare anche il fatto che siamo arrivati ai primi due anni di adesione per molti lavoratori alle forme di previdenza complementare e si potrebbe aprire una finestra di cambiamento. Massimiliano, buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie per avermi richiamato. Grazie a lei. Io avevo una problematica di questo genere. Io qualche anno fa ho sottoscritto un fondo pensione e adesso ho avuto l'opportunità, tramite un assicuratore di fiducia, trasferire dalla vecchia forma previdenziale al nuovo gruppo assicurativo il mio fondo pensione. Il problema è che ho già effettuato diverse raccomandate con ricevuta di ritorno, spiegando che dall'altra parte nella nuova compagnia assicurativa avevo già predisposto, diciamo, un bacino per cui trasferire la mia vecchia polizza in fondo pensione. Di fatto, a distanza di un anno, nonostante solleciti raccomandate, la compagnia che ovviamente detiene il fondo pensione non mi ha trasferito dentro la nuova compagnia il flottante, quello che io comunque ho versato. Certo, Massimiliano, posso sapere se il suo fondo pensione è un fondo noto, un fondo di categoria, in che categoria lavora? Ma se vuole le posso dire il nome. Sì, certo. Posso dire. Io ho fatto un fondo pensione con Bayerisch, che adesso è diventata Ergo Previdenza. Ah, quindi non abbiamo un fondo di categoria, sì. Abbiamo anche una situazione un po' complessa per quello che riguarda la società, per la verità. Sì, Massimiliano. Allora, visto che chiedo scusa, faccio solo una precisazione. Dall'altra parte la compagnia e Zurich, io ho aperto il piano con loro, soltanto che loro è tutto operativo, ma non ricevono il trasferimento dalla Bayerisch. Beh, una situazione della quale io credo che il presidente della Covip, Finocchiaro, si vorrà occupare molto, molto volentieri, visto che ovviamente il lavoro della Covip è proprio quello di vigilare sull'atteggiamento dei fondi pensione proprio in termini di trasparenza. Qua non vanno tanto bene le cose. Presidente, che ne pensa? Due precisazioni. La prima è che ho la sensazione che il radioascoltatore, aderendo ad un fondo non chiuso, ha rinunciato di fatto al contributo del datore di lavoro. Nel passaggio da un fondo all'altro ci sono tre aspetti da valutare con attenzione, quindi magari in termini comparativi. Costi da sopportare, i costi non sono uguali per tutti i fondi, la portabilità o meno del contributo datoriale, che è una cosa importante questa, perché nei fondi chiusi il contributo è certo, nei fondi aperti ci sono delle condizioni, ma allo stato attuale nei cosiddetti PIP, ritengo che i piani individuali pensionistici, e credo che l'ascoltatore si interessi a questo problema, noi gli abbiamo neanche chiesto che tipo di lavoro fa, quindi magari non avendo un fondo suo. E il terzo fattore da valutare è l'impatto che costi e portabilità possono avere sulla rendita futura. Tenga presente che un punto in più di costo oggi significa una rendita fra 30 anni inferiore di 13-14 punti. Quindi è un'analisi seria. Purtroppo quello della conoscenza dei fondi pensioni, degli strumenti, dei metodi di valutazione è purtroppo una grossa carenza, per la quale noi vorremmo ripetere quella seconda famosa campagna pubblicitaria e vorremmo creare una sorta di coscienza previdenziale, di conoscenza previdenziale. Ecco quindi, però Presidente Finocchiaro, mi perdoni. Problema. Sì, adesso glielo faccio spiegare. Non abbiamo però avuto modo di approfondire con Massimiliano tutti questi aspetti che lei ha indicato. Ammettendo che però Massimiliano fosse totalmente consapevole di tutti questi aspetti, quindi quanto costa spostare un fondo da una gestione piuttosto che da un'altra, il tema del contributo del datore di lavoro eccetera, qui il tema è che invece non riesce proprio a parlare con la compagnia vecchia, che è del tutto imbarcabile. Ha ragione, cioè devo dire che questo è uno degli aspetti su quale noi abbiamo attirato l'attenzione, questo dei ricorsi, stiamo sollecitando le compagnie, ma nel loro stesso interesse, oltre a quello degli aderenti, a rispondere tempestivamente e in maniera esauriente ai problemi noi riceviamo ogni giorno, abbiamo decine di questi ricorsi, di queste segnalazioni, e stiamo ipotizzando proprio una modifica da pubblicare nell'arco di qualche settimana, che vada incontro a questo tipo di... È un errore da parte dei fondi non fare una corretta comunicazione, non fare una corretta informativa, non rispondere tempestivamente. In alcuni casi abbiamo... non risponde affatto. In alcuni casi abbiamo scoperto che i fondi per fare le operazioni come quella prospettate dal radioascoltatore hanno dei tempi ben precisi, tempi ben previsti dalla legge. Quando li superano fanno un grande errore, perché la Covip in questo caso può intervenire con sanzioni. Benissimo, allora guardi, tenga conto che noi praticamente le abbiamo fatto una bella denuncia in diretta rispetto a questa situazione, gliela faccio anche documentare dall'ascoltatore, così anche per curiosità cerchiamo di capire come mai questa compagnia così si sente nel diritto di non dover dialogare minimamente con il suo cliente, magari per tentare anche di trattenerlo, perché no, voglio dire, potrebbe anche essere svilupparsi giusto in questa maniera. La trattativa. Allora, Marco, volevi intervenire su questa vicenda? Ascoltiamo un altro ascoltatore. Giuseppe da Lecce, benvenuto. Buongiorno a lei, signora Presidente Finocchiaro. Io volevo porre una sola domanda. Sono un insegnante nella scuola e fra 5 anni andrò in pensione. Sì. È il caso che io entri in qualche... in qualche fondo? C'è Giuseppe, quello della scuola, certo, l'ultimo nato dei fondi negoziali ed espero, però adesso vediamo se è il caso per chi ha una, come dire, una prospettiva di andare in pensione molto, molto ridotta nel tempo, vediamo se è suggeribile, indicabile, che brutte parole che sto usando stamattina, appunto l'adesione ad alla forma di previdenza complementare, quella di categoria o un'altra. Però c'è anche Roberto da Ferrara che credo volesse porre un quesito simile. Roberto? Sì, buongiorno. Abbiamo una telefonata? Sì, ci siamo. Mi sente? Sì, sì. Sì, praticamente era quasi simile. Io ho meno anni di anzianità, 33 anni, ho 53 anni di età e quindi visto che i fondi, le quote dei fondi si sono abbassate notevolmente, prima non avevo scelto, quindi chiedevo, è il caso forse adesso di entrare, io lavoro nel settore metalmeccanico, quindi noi abbiamo il fondo nostro, sì, certo. Se è il caso di farci un pensierino, insomma, vedere se valeva la pena di questi 7 anni, 8, quelli che mi rimangono, insomma, di aderire adesso alla previdenza complementare. Insomma. Roberto, io la ringrazio molto, così come ringrazio Giuseppe da Lecce. E allora, il momento per aderire alla previdenza complementare per chi si convince della scelta, Marco Lo Conte, è sempre il momento giusto? Ma allora, diciamo, chi ha pochi anni a disposizione prima di andare in pensione per aderire alla previdenza, lo può fare non con l'obiettivo magari di ottenere una rendita al momento di andare in pensione, ma di ottenere anche semplicemente una forma di capitale, perché sotto alcuni livelli il calcolo è abbastanza complicato, qui non vi tedio con l'enunciazione, ma sotto alcuni livelli non è indispensabile ottenere una rendita, ma riscattare il capitale. Un capitale rivalutato nel giro di pochi anni, se uno ha 2 risparmi da parte può metterli in maniera efficiente in un fondo pensione in maniera alternativa rispetto ad un altro strumento come un fondo comune che costa di più e pur non avendo vincoli, ma sostanzialmente i costi superiori erodono i rendimenti annuali, con la consapevolezza di fare come diceva il nostro ascoltatore. Ora le quote sono scese, i mercati sono scesi, entrare adesso può essere un'opportunità con questa consapevolezza. Espero è il fondo della scuola, come tu giustamente citavi, e anche per chi è vicino alla pensione e lavora nel settore della scuola, questo può essere un'opportunità interessante, ripeto, non per beneficiare di una rendita che è comunque, lo ricordo, l'obiettivo principale e prioritario dell'adesione alla previdenza complementare, una rendita che aiuterà a supportare il calo della pensione di primo pilastro che progressivamente andrà a definirsi in maniera sempre più evidente. Non una rendita, dicevo, ma una forma di capitale che potrebbe essere interessante. Per gli scettici, Marco, so che tu comunque hai sempre i numeri sotto i tuoi occhi. Roberto ci chiede se possiamo dare qualche dato relativamente alle percentuali dei lavoratori che hanno aderito ai fondi pensioni privati e pubblici. Quali sono, insomma, proprio le macro statistiche, allora, in questo pubblici senso? Pubblici sono pochi, una piccola percentuale dei dipendenti del mondo della scuola, non solo gli insegnanti, ma anche il personale ATA per quanto riguarda la scuola. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, circa, come diceva il presidente Finocchiaro poco fa, il 25% ha aderito. Noi domani su Plus entriamo un po' nel merito, perché nella piega delle 200 pagine della relazione Covip ce la siamo io e me stesso guardata e abbiamo scoperto che effettivamente c'è una alta percentuale di aderenti, che circa il 25% che è iscritta ma quasi formalmente mette poco o mette niente nella sua posizione. Questo è uno svantaggio per loro, per questo è importante una nuova fase fatta bene, un nuovo silenzio assenso di 6 mesi, ma fatto bene, organizzato bene, con una campagna mediatica ma anche di cultura previdenziale, organizzata con tutti i crismi, per fare in modo che appaia evidente il vantaggio di aderire alla previdenza complementare e la necessità, perché sentivo dire da un politico ieri che non è il caso di raccontare che l'economia perde, che scende il PIL. Ah, sì, ecco, uno anche un po' famoso. Non mi ricordo il nome, ma io credo che sia opportuno ricordare che chi andrà in pensione col primo il primo pilastro, cioè la pensione pubblica di chi andrà in pensione nei prossimi anni, sarà pesantemente defalcata dalla crisi. Ora, non dirlo non mi sembra del tutto corretto, perché se andrà in pensione con meno soldi, lo Stato è uno dei peggiori gestori, non perché perde tantissimo, ma perché amministra la parte preponderante della nostra pensione. Quindi un meno 5% del PIL, insieme agli altri anni vicini, si sa che è la media degli ultimi 5 anni, e questo inciderà in maniera corposa sulle pensioni di chi smetterà di lavorare nei prossimi anni. Dunque è il caso per questo di aderire ad una previdenza complementare. E intanto, a proposito di politici famosi, lo abbiamo citato stamattina, il ministro Sacconi con il presidente della Covip e Finocchiaro stanno immaginando di dar vita a questo nuovo semestre di silenzio assenso per decidere la destinazione del TFR. Sacconi ipotizza addirittura che possa essere il primo semestre del prossimo anno, 2010, chissà se i tempi ci saranno. Allora, adesso vorremmo rispondere a tutti coloro che in qualche maniera sono degli irriducibili del TFR, del tutto legittimamente, perché se insomma non volete aderire al fondo pensione è una scelta del tutto pertinente alle vostre esigenze e alle vostre certezze, anche se vogliamo. C'è però anche un'altra categoria di persone che si sente un po' scoraggiato rispetto a questa situazione. Marco da Milano, che lavora nel settore assicurativo. Marco. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Io sono un esperto previdenziale, lavoro in assicurazione a Milano da 2 anni, dal 2007 mi occupo proprio del collocamento dei fondi pensione, tra l'altro non di forme individuali come i PIP, ma mi occupo dei cosiddetti fondi pensione aperti, sì. Quindi di stipulare accordi all'interno delle aziende. Devo dire che noi abbiamo lavorato veramente tanto, proprio anche con workshop all'interno delle aziende, parlando alla collettività dei lavoratori, anche parlando con i singoli lavoratori. E c'è molto scetticismo che è legato, come sento molti dei vostri spettatori, diciamo ascoltatori, sia sicuramente c'è una sfiducia generale, diciamo anche negli intermediari, che qualche volta è anche motivata, perché chiaramente non tutti lavorano correttamente, ma poi è legata anche a una percezione, secondo me, errata del fondo pensione. Cioè, quando si parla di fondo pensione tutti pensano alla borsa, e quindi immediatamente tutti pensano alla sicurezza del TFR. Però nonostante sia stata fatta anche una campagna chiara spiegando ai potenziali aderenti che anche se non volessero ragionare in un'ottica di lungo periodo, con una linea monetaria e sfruttando il contributo del datore di lavoro nonché la fiscalità di vantaggio, un fondo pensione è sempre più conveniente del TFR, nonostante questo noi troviamo veramente tantissime difficoltà a collocare i fondi. Sì, ma noi ce lo ricordiamo anche, Marco, adesso la faccio concludere, 2 anni fa, quando abbiamo fatto praticamente una trasmissione a settimana, quando c'era il primo famoso periodo del silenzio assenso, e molti cercavano in maniera molto costruttiva di documentarsi al meglio intorno a questa vera e propria rivoluzione per il nostro paese. Molti altri invece hanno considerato completamente questa rivoluzione come lo scippo del TFR, praticamente, per cui anche noi abbiamo dovuto lottare non poco. Proprio questo, e combattere, io non so fino a che punto, tanto concludo rapidamente, non so fino a che punto ulteriori campagne informative, anche fatte molto bene da parte del governo, da parte delle compagnie assicurative che già hanno investito anche molto, no? Anche nella rete di vendita, possano incentivare. Io sono arrivato a pensare che forse, come io credo, se questa cosa è così importante, bisognerebbe creare dei meccanismi quasi di obbligatorietà. Ecco, lo so che è una parola forte, però se c'è questa esigenza, io arrivo a pensare per assurdo a questo. La ringrazio per la sua considerazione, perché c'è anche, guardi, allora mi perdonerà Finocchiaro, faccio sentire un altro ascoltatore, perché ci dà l'opportunità di legarci proprio a questo suo ultimo punto toccato, Marco. Giuseppe da Latina, che invece non capisce il motivo per cui si utilizza proprio il meccanismo del silenzio assenso. Sì, io non è che non capisco, nel senso che mi sembra quasi un obbligo nascosto ad aderire ai fondi pensione. In pratica, anziché manifestare il voler partecipare, dal momento che è sempre aperta la possibilità di entrare, si approfitta magari di una dimenticanza di parte di una platea magari molto vasta per costringere persone che non manifestano l'intenzione di entrare a pagare un fondo pensione. Sì, certo. Perché fondamentalmente vista nell'ottica futura probabilmente è positiva, però teniamo sempre presente che il lavoratore già paga il 33% della propria retribuzione per garantirsi un futuro pensionistico. Giuseppe, quindi... la ringrazio perché vorrei dare la parola a Finocchiaro. Io la vedo in maniera diversa, sapendo che c'è questo meccanismo, che il meccanismo funziona in questo modo, io sono magari un po' più sensibilizzato a mettere la testa in questo problema del mio futuro previdenziale. Io la vedo in questa maniera. D'altronde, 6 mesi di tempo non sono una settimana. Presidente Finocchiaro, le consegno in mano le due riflessioni che abbiamo appena sentito. Guardi, io, dagli interventi che ho ascoltato, traggo sempre più la convinzione che c'è una notevole, la parola è brutta, ma ignoranza in materia previdenziale. Cioè, alcuni ascoltatori non si rendono conto che aderire a un fondo previdenziale, ad un fondo complementare, significa, soprattutto se è un fondo chiuso oppure se è un fondo aperto in base a degli accordi negoziali tra le parti sociali, naturalmente, che già c'è da portarsi dietro il contributo del datore di lavoro, un contributo che, mantenendo il TFR in azienda, ovvero aderendo a piani individuali pensionistici, non c'è. E già questo è una cosa incredibile, cioè se si facessero dei rendimenti, dei discorsi seri sui rendimenti, su quello che è successo sul mercato, eccetera, vabbè, ognuno ha le proprie opinioni, più o meno giuste, più o meno sbagliate. Ma rinunciare ad un contributo datoriale è veramente, veramente incredibile. E questa è la prima considerazione. Questa mi convince sempre più della necessità di avviare, chiamiamola campagna, chiamiamola... abbiamo un accordo, per esempio, col Ministero della Pubblica Istruzione, un memorandum per parlare di previdenza complementare nelle scuole superiori, perché una cosa che pochissima gente sa, che è stata anche richiamata al Ministro Sacconi, è che un genitore può iscrivere già oggi in un fondo complementare i figli a carico, con due vantaggi. Da un lato ha delle detrazioni fiscali di cui usufruisce il genitore stesso, dall'altro comincia a instillare o a far capire ai giovani, ai ragazzi, eccetera, l'importanza del proprio futuro previdenziale. E questa, per esempio, è una delle cose che pochissima gente sa. Quindi di qui proprio dagli interventi dei radioascoltatori viene fuori in un certo qual modo questa scarsa conoscenza delle possibilità, della scarsa conoscenza degli strumenti, della scarsa conoscenza dei vantaggi e anche degli svantaggi, perché non ricordiamoci che il sistema complementare è un sistema su base volontaria e con contribuzioni e con ricontribuzioni bene definite, insomma. Quindi C'è un bel po' di lavoro da fare, Presidente. Abbiamo capito che bisogna scalfire un po' di resistenze, ma soprattutto, perché lo torno a ribadire, è qualcosa di... Sono passati 2 anni da quando tutto il meccanismo si è avviato. Il rischio c'è ora. Abbiamo affrontato una crisi pesantissima, pertanto le nostre paure sono ulteriormente aumentate. Soprattutto abbiamo a che fare con un sistema che per la nostra mentalità è radicalmente nuovo. Marco, volevo farti sentire, ci mancano 2 minuti, la domanda di Giorgio da Padova, perché non gli tornano i conti però sulla fiscalità del fondo pensione. Giorgio, rapidamente, la ringrazio. Sì, velocemente. Guarda, io ho versato 7 anni a un fondo pensione e poi la compagnia mi chiede se volevo il premio oppure se volevo il capitale oppure la vendita. La vendita era talmente bassa e allora ho detto capitale. E mi dicono che ho un lordo di 41.000 euro e poi me ne dicono 33, mi hanno fatto una ritenuta fiscale di 23.000, del 23% in pratica. Sì. Poi mi ha detto il promotore che addirittura avrò un conguaglio ancora di ritenuta fra l'aliquota media che dovevo pagare nel corso dei 7 anni e quello che mi sono detratto, il massimo che mi sono detratto nella dichiarazione. Sì, Giorgio, la sentiamo un pochino disturbata. Marco Lo Conte. Sì, l'impressione è che quella forma previdenziale a cui ha aderito il nostro ascoltatore non sia legata alla riforma del TFR, assolutamente no, perché se è una polizza e non è una polizza previdenziale secondo la legge 252 del 2005, quella della riforma del TFR, ha altre caratteristiche, è una forma assicurativa che può avere una delle caratteristiche previdenziali, ma non è... Temo, Giorgio, che non sia quella. Quindi anche lì, insomma, cerchiamo di capire bene che cosa abbiamo sottoscritto qualche anno fa. Giorgio, la ringrazio, ma siccome le abbiamo risposto molto velocemente, se vuole magari ci può scrivere e daremo un'occhiata un po' più approfondita al suo caso. Presidente Finocchiaro, noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, la ringrazio molto di averci dedicato quest'ora del suo tempo, ma siccome ci sono tante cose da dire, dobbiamo continuare ad informare i nostri ascoltatori sulla previdenza complementare, noi la invitiamo molto presto. D'accordo, Presidente, non ho problemi. Buona giornata. D'accordo. Allora, grazie molto, Deborah, per essere stato con noi. Il presidente della Covip, Marco Lo Conte. Grazie a tutti. Grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Peter Bescapè in assistenza tecnica. Noi ritorniamo come sempre lunedì e parleremo dei giudici di pace. Buona giornata.